l'importanza del rapporto medico-paziente, i fattori che lo influenzano e come migliorarlo. Perché è importante per i medici conquistare la fiducia dei pazienti? Un aspetto chiave della relazione medico-paziente è la costruzione di un rapporto di fiducia reciproca. Un paziente deve sentirsi a proprio agio nel condividere le proprie preoccupazioni con il proprio medico e fidarsi del suo giudizio clinico. Se un paziente non ha fiducia nel medico o teme di essere giudicato o non ascoltato, potrebbe trascurare di seguire i consigli medici o non parlare delle proprie preoccupazioni e dubbi sulla terapia prescritta. Ciò riduce le possibilità per il medico di offrire cure appropriate e rendere più difficile la guarigione del paziente. Come il rapporto medico-paziente influenza il processo di guarigione? Il rapporto medico-paziente è un elemento essenziale per il processo di guarigione. La fiducia, l'empatia e la comunicazione sono fondamentali per una relazione di successo tra medico e paziente. I medici dovrebbero essere consapevoli del fatto che le cure mediche possono essere più efficaci se il paziente si sente a proprio agio e sicuro nella cura fornita. Infine, la costruzione di un buon rapporto medico-paziente può fare una grande differenza nel processo di guarigione. Vediamo ora alcuni consigli per migliorare la relazione medico-paziente. Ascolta i tuoi pazienti. I pazienti vogliono essere ascoltati. È importante quindi raccogliere tutte le informazioni che forniscono durante la visita e mostrare rispetto ed interesse per le loro preoccupazioni. Vedere il proprio medico che annota con attenzione i sintomi del loro problema di salute, infatti, crea fiducia, riducendo ansie e tensioni. Troppo spesso i pazienti, che credono di non essere ascoltati, evitano i controlli sanitari, rimanendo senza un'adeguata assistenza medica. Ecco alcuni consigli su come migliorare l'ascolto attivo. Fai attenzione al linguaggio del corpo e stabilisci un contatto visivo. Evita segnali di chiusura come ad esempio l'incrociare le braccia. Se hai bisogno di prendere appunti, fallo sapere ai pazienti per rassicurarli che stai ascoltando quello che stanno dicendo. E cerca di non interromperli quando parlano. Lascia che esprimano le loro preoccupazioni prima di rispondere. Comunica in modo efficace con i tuoi pazienti. Un modo di parlare chiaro, così come l'ascolto attento, gioca un ruolo fondamentale nel migliorare il rapporto medico-paziente. Per questo si raccomanda che la comunicazione includa un linguaggio privo di gergo medico, in modo che le informazioni e le istruzioni che stai dando siano facili da capire, l'uso di elementi visivi come foto, infografico e contenuti video per spiegare argomenti complicati, lo spazio in cui i pazienti possano porre domande e ottenere ulteriori informazioni. La tecnica del teach back, ovvero il medico chiede al paziente di spiegare con parole proprie le informazioni e le istruzioni che gli sono state fornite. Dimostra empatia. L'empatia è un altro elemento essenziale nella relazione medico-paziente. Mostrando ai tuoi pazienti che comprendi le loro preoccupazioni e riconosci come si sentono, migliora la loro soddisfazione. Ricerche recenti hanno dimostrato che l'empatia e la compassione migliorano la salute emotiva, i sintomi, le risposte fisiologiche e i livelli di dolore dei pazienti. Raccogli il feedback dei pazienti. Raccogliere il feedback dei tuoi pazienti dimostra che vuoi ascoltare e comprendere le loro esperienze per migliorare le cure future. Spiega che questi dati sono importanti per la tua pratica e come utilizzerli.